Questo quello per me pari sono, a quant'altri d'intorno, d'intorno mi vedo. Del mio cuore l'impero non cedo, meglio a cura che ad altra metà. La costoro avvenenza è quel dono, di che il fato ne inviola la vita. So di questa mi torna gradita, forse un'altra, domanda sarà una. Forse un'altra domanda sarà. La costanza tiranna del cuore, del schiavo fa il morbo crudele. Son chi vuole si servi fedele, non va a morno se non v'è libertà. Mariti il geloso furore, degli amanti le smanie derido, anco d'argo di cent'occhi di sfido, se mi punge una qualche beltà. Una qualche metà.